Allora, alle 12 e 16 minuti dalla nostra città ci trasferiamo in quel di Torino, dove abbiamo annunciato girando un film, si dovrebbe girare un film, e però insomma ci sono anche tante altre persone che non c'entrano direttamente con questo film. Allora diamo subito la parola a un nostro compagno e amico che si trova da quelle parti, credo proprio nelle vicinanze. Pronto? Del set. Pronto, ecco, ci senti? Pronto, sì. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, che succede dalle parti vostre? Che film si sta girando anzitutto? O si dovrebbe girare? Allora, partiamo un po', facciamo un po' un flashback su quello che siamo riusciti a venire a scoprire, ovvero quest'estate nell'ambiente dei compagni e delle compagne che comunque lavorano nel cinema a Torino. Sono tanti e tante le persone che comunque lavorano nel cinema, perché Torino ha vissuto una parte di rilancio a livello di set cinematografico, per cui diciamo che l'indotto cinematografico per un periodo da Roma si è spostato in varie altre città, tra le quali anche Torino, e grazie a queste persone che comunque lavorano nell'ambiente siamo riusciti a scoprire che ci sarebbe stato, si vuole fare un film che sulla storia, la vicenda di Sole Baleno. E fin qui, fin quando la cosa era più o meno nell'aria, eravamo un po' tutti, abbiamo iniziato a informarci e abbiamo scoperto che il film è basato su il libro Amore e Anarchia, scritto da un giornalista argentino, un tale Martín Caparrós, che nel 1998 si finse amico della famiglia di Sole e trafugò delle lettere non solo d'amore, ma anche delle lettere di compagne che, con cui appunto Sole aveva avuto questa corrispondenza, tornò in Argentina e ci fece questo best seller, che è stato tra l'altro tradotto in molte lingue tranne che in italiano. Questo perché il libro è una schifezza, nel senso che il libro riduce la storia di nostri due compagni morti, suicidi, sottolineerei suicidi, perché comunque si trovavano indagati per essere parte di un'associazione sovversiva denominata Lupi Grigi, che aveva fatto dei piccoli sabotaggi quando ancora di alta velocità non se ne parlava, e vennero trovati morti, uno nel carcere delle Vallette, Baleno, e l'altro in una comunità Sole. E quindi questa operazione che si vuole girare qua a Torino è un'operazione di commercializzazione di due persone che a noi sono state molto chiare, molto care. Non solo a noi, perché poi la storia di Sole Baleno ha riguardato un po' tutti e tutte in Italia, insomma. E quindi siamo davanti alla Film Commission, appunto questa sede dove si sono iniziati a svolgere i casting, a volantinare, a spiegare il nostro punto di vista su questa operazione, che è un'operazione pura di riassorbimento delle lotte dell'opposizione sociale, riassorbimento nel sistema. Addirittura, la produzione è una produzione milanese che fa, diciamo, da base per questa produzione argentina, perché questo film sarà dovrebbe essere l'opera prima della figlia del presidente argentino Macri, che appunto al suo primo film ha deciso di il personaggio spostare. Più appropriato per un'operazione del genere. Sì, un'operazione appunto in tipico stile intellettualoide, no? Anche se poi la storia di Amore e Anarchia è una storia comunque, sembra una roba da romanzetto, no? Questa ragazza, certo, di buona famiglia borghese argentina che arriva in Italia, si innamora del criminale e quindi entra in questo giro strano, no? Di terrorismo ed ecoterrorismo, e quindi ci sembrava una cosa da non far passare inosservata, perché questa è una storia nostra, di tutti e di tutte, di cui solo noi o comunque solo le persone di questo movimento lo possono parlare, possono discuterne, prima di tutto a livello orale, poi ovviamente a livello di controinformazione cartacea e con altri vari mezzi di comunicazione. Questa mattina sono 3 giorni quindi di casting, tra l'altro un casting appunto passato un po' inosservato, a differenza dei soliti altri canali. Ad esempio la Film Commission ha delle liste di casting, non è stato neanche messo in queste liste di casting. Il cerca di comparse, l'avviso è stato volantinato così nei quartieri un po' alternativi, e dove cerca di comparse era una cosa simpaticissima per modo di dire, nel senso che cercavano raver, spanca bestia, amante degli anni 90, grunge e cose di questo genere. Quindi in questo clima comunque surreale stanno cercando di trovare persone per fare questa operazione di riassorbimento, questa operazione intellettualoide, insomma questa schifezza, perché io non so sinceramente che termine usare, mi scuseranno gli ascoltatori e le radioascoltatrici, ma per noi che abbiamo conosciuto queste due persone, che per noi che il 98 comunque l'abbiamo vissuto a livello cittadino, questa è un'operazione che non sa da fa. Stamattina il casting era pieno di Digos, c'era anche un cellulare, adesso in questo momento se ne sono andati, ma c'era anche un cellulare con il dirigente di piazza, non so perché cosa, perché poi alla fine la situazione in questi giorni è sempre stata molto tranquilla, nel senso che avvicinavamo le persone, spiegavamo le nostre ragioni, senza né di più né di meno, insomma, certo. Abbiamo iniziato questo boicottaggio partendo da qua, parlando con le pochissime persone che si sono presentate ai casting. Va bene, insomma è curioso, perché poi sono quelle vicende che ti lasciano una grande amarezza, ma poi diventano anche surreali in qualche modo, no? Perché è anche difficile approcciarci in qualche maniera. Sì, è difficile approcciare, perché poi il discorso di comunque fare la comparsa in questo periodo, in cui comunque poi che tipo di comparsa, nel senso che comunque cercano il giovane alternativo, no? Per cui anche i ragazzi più giovani vedono nel fare comunque la comparsa, vestirsi un po' così trasandati, diciamo così, questa roba di comunque un guadagno facile. Il problema è che questo sciacallaggio sta passando appunto da il libro, poi da una sceneggiatura che sembra sia stata riscritta 3 volte e comunque le persone che partecipano non sapendo che cosa stanno andando a fare, perché comunque parlando con alcuni ragazzi che sono tornati a casa, perché il boicottaggio secondo me sta riuscendo, parlando, informando che appunto questo film parla di queste due persone, insomma, di questi due compagni. Va bene, senti, che dire, vi ringraziamo sia per la corrispondenza ovviamente, ma sia anche diciamo per il tentativo di igiene culturale che è stato tentato questa mattina, perché poi insomma sappiamo bene quanto potenti siano certi mezzi e come poi anche un film solo in qualche modo può radere al suolo anni di storia, di lotte e di memoria, per cui ben vengano queste iniziative. Certo, sì, questa sarebbe una storia che, cioè, sarebbe un'operazione che spazzerebbe via una parte appunto della nostra storia, di tutte, non solo appunto a livello torinese, ma a livello anche italiano, oserei dire. Addirittura comunque speriamo che questa storia esca un po' dai nostri soliti canali, perché non vogliamo assolutamente che questa cosa venga girata qui. Poi giustamente il cinema è una macchina enorme, appunto Macri comunque ci ha buttato su parecchi soldi, ha puntato proprio forte, diciamo, e quindi sicuramente non è che potremmo impedire che questo film venga fatto chissà dove. Poi con le nuove tecnologie i film possono essere gli ambienti possono essere riprodotti come si vogliono, però qua non lo devono fare, e noi ci stiamo opponendo in questo momento parlando con le persone. Poi sicuramente non finirà qui questa cosa, anche perché loro dovrebbero iniziare a fare le riprese dal 5 novembre. Va bene, quindi insomma avremo modo di riaggiornarci da qui al mese prossimo e insomma capire anche che clima ci sarà. Perché, sicuramente. Intanto io saluto tutte e tutte e niente, ci risentiremo sicuramente, vi riporteremo aggiornamenti delle situazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni. Va bene, ci risentiremo dalla capitale del cinema, perché pochi lo sanno, ma in realtà il cinema in Italia è nato a Torino, non a Roma. Poi a Roma è arrivato poco dopo, però la palma. Se ti dica, a Torino sono andate tantissime altre cose, poi sono state tra virgolette scippate. Però ecco, va so, così, siamo una città operaia molto underground. Accidenti, non esageriamo, che poi qua cominciamo con i discorsi nord-sud, cioè, si sa come comincia e poi non si sa come va a finire. Infatti, abbattiamo qualsiasi localismo e qualsiasi campanilismo che ci può essere, insomma. Va bene. Dai, grazie mille per questa operazione ancora una volta, e un abbraccio a te, a tutte e tutti voi. A prestissimo. Un abbraccio. Un abbraccio, ciao.